in alto con un palo lungo di 6 metri come la prima, adesso invece ce l'ho la parte bassa della casa, sono solo dalla casa e ci sono 3 metri, 3 metri e mezzo di differenza, dalla parte dietro alla parte davanti, perché tutta la pendenza del tetto, no? Per cui poi è piazzata a livello di davanzale, sul davanzale del terrazzino. Per arrivarci basta che mi metta la sedia e ci arrivo per evitare il piede, non è un problema. Se fosse stato un pochino più alto ci sarei arrivato anche senza la sedia, però va bene così, da va bene, io già mi sento, non c'è problema. Luca, rientrato sì? Me. Difendi tu Natali, che Luca deve essere che sta scivolando dalla sedia. Luca se ne va a Donzelle, se ne va alla faccia mia, e io invece devo rimanere qua in prigione. Luca, ma ecco perché ho veneciato la... A me stai dicendo già? Sì. Non so che state dicendo, che non rispondo. Sì, ho finito anche con il 34. Che la bucciolai su perché, mamma mia. Mi stai mandando le foto. Sì, e anche il video mi sembra. Ma lui voleva vedicciarlo oppure lo stai facendo tu per farlo splendido? No, lo sto facendo io già, non è che me l'ha chiesto lui, capito? Ha cambiato, hai visto come ha cambiato? Cioè come hanno cambiato? E l'hai praticamente dovuto ripiegare per un bel po', perché ho visto che c'erano delle luci. Quello sì. Ma come si fa a ridurre dei coperchi così? Non lo so. Forse l'hanno tenuti in qualche magazzino, qualche cosa senza usare, poi l'hanno sottofutto. Ti dicono, c'è una cosa di... No, ma funzionava, guarda, funzionava, non so, controlla. Drginus. E dentro cosa c'è? Cambia. Come si dice a Sassari, la cappa a tutti i mari zappa. Va avanti Marco, dai, che fra qualche minuto vi saluto. Marco? Sì, stiamo lasciando in bianco Giovanni, vediamo se c'è ancora. Giovanni se n'è andato, ha salutato. No, allora mi ero allontanato dall'apparato. Sì Marco, perché ti abbiamo chiamato e non hai risposto, quindi ho detto magari dalla madre sta facendo qualcosa, l'ha chiamato la madre a fare il caffè. No, lo yogurt l'ha dato la Marina. Lo so, di tanto ti chiama, quindi lo so che è così. No, ma è andato via stanco, ci ha salutato tutti e è andato via. E vabbè, ogni tanto mi fa piacere che... Eia. Va bene, dai riprendetevi qua, mi chiama, dai riprendete voi. Allora riprendo io, dai, e vi saluto, dai. Grazie per la chiacchieratina a tutti, ci sentiamo domani sera, se, o anche domani mattina se coincide, non lo so, vedremo. Ciao Marco, grazie per la chiacchierata, ciao Gianni, grazie a te per la chiacchierata, Luca, Natalino, Giovanni se ancora ascolto e Antonio Bombolo se c'è ancora. Saluto io a tutti, ascolto il vostro Pinalino, dopodiché chiudo. Avanti Natalino. Ciao Giù, buon tutto, buon proseguimento di serata, grazie per la chiacchieratina, anche se breve perché io non c'ero. Riprendi Marco per i saluti a Giulio. Marco si è allontanato, scusa Natali, ti volevo informare, ti hai preso l'occasione poc'anzi di sentire Gianfranco, è entrato Gianfranco per un attimo, abbiamo scambiato due chiacchiere così, però poi lui ha chiuso, o perlomeno si è allontanato per altre frequenze, non lo so. Va bene, adesso la notizia è arrivata, salutoni a tutti, ascolto il resto degli amici, vi prendo fino a lì e dopo chiudo. Avanti Luca. Ciao Giù, dai, la sento anch'io. Ciao Giulio, alle prossime. Avanti già. Ciao Giulio, dai. Buona carica, quando la fai. Siamo qui anche domani mattina, se vuoi attacca. Io l'altro giorno ho attaccato in macchina, ma non ve la nessuno. Ho montato tutto, questo è stato 4 ore, ho montato la roba e poi non ve la nessuno. Vabbè. Andare, ci sentiamo, avanti Natalino, ma che ore sono? Perché a me forse mi si è fermato l'orologio, io ho le 7 meno 10, può essere. No, sono le 7:05, già, sono le 7:05 in questo momento, anzi sì, cosa ti volevo dire? Saluti a chi se n'è andato. che mi ero spostato e ho sentito che stava andando via gente. Ok, riprendi già. A girare tu. Giulio se n'è andato. C'ho Franco che se n'è andato dall'altro canale, forcetto qua. Ah, cazzo. Vabbè, là. Anche io faccio quei retti che adesso arrivano le pizze fra un po', che so pure a digiuno, che per quell'esame che dovevo fare, quindi c'ho anche una discreta fame. Ci sentiamo alle prossime, là. Ciao a tutti, quei retti per me. Ciao, ciao Raffaele, ci sentiamo. Luca, ha chiuso anche Luca. Luca, ci sì. Marco, oh no, vabbè, dai, io faccio quei retti lo stesso, anzi faccio questi greco. No. Che? No. E beh. E allora, tanto mio. Oia. E mi stavo per andare sul 23 perché c'è Franco e lo sento qua. E mi sta splatterando. Vabbè che si è abbassato il refrigerio, non lo sento più, eh. E ieri c'è scappato, qua. No, sono scappato. Non hai capito che, vabbè, già mi hai compreso. Stavo bene, dai. No, io ho capito un'altra cosa, che il cane, perché sentivo murugnando, ho detto forse devo portare giù il cane. No, non mi sentivo bene, era un cazzo a capogiro, non riuscivo a muovermi per girarmi a prendere il microfono. E adesso un po' mi è passato, anche stamattina ce l'avevo. Un po' mi è passato adesso, il cazzo qui ho portato il cane che era imbriaco. Mi sono dovuto sedere nel muretto perché vedevo tutto sdoppiato, dai. Adesso che sia come si dice, l'altro dice vincale oppure la labirintina. Chi va sempre che anche lì c'è mia pazza, boh. A me ce l'ho avuto al 98, mi sono mangiato due pasti con la marmellata, con la zanca, che buone. Sono salito a 145, va bene così. Guarda, io la salino, io sto meglio quando ce l'ho alta di quando ce l'ho bassa. Quando ce l'ho bassa mi viene la tremarella. Se ce l'ho alta invece non mi accorgo di nulla. Non mi accorgo proprio di nulla se ce l'ho alta. Vabbè, ieri ho detto al mangio, non ho voluto cucinare, mangio due pezzi di formaggio, ho mangiato due pezzi di formaggio, un pomodoro con la maionese e un arancio. Cazzo, mi è salita a 300 e passa, e ce l'avevo a 126. Ma l'arancio non è molto dolce, è sempre quello, no? Io arancio proprio. Vedete, la verità, ho mangiato io oggi a pranzo, sono arrivato tardi, perché ho fatto delle commissioni, e sono arrivato, che era l'una e mezzo, 2:20, non avevo manco guarda di magna, mi sono mangiato due cacchi mela, è stato così bene già, manco la glicemia mi è salita. Ma i cacchi fanno salire la glicemia, i cacchi sono un frutto di quelli proibiti, con i fichi, con l'uva, con la banana, tutti, e anche i cacchi sono proibitissimi. Ah, le mangio ben volentieri, dai. Peccato che la banana non è posso mangiare, che è veleno per noi, se no mi avrei messo pure la banana, cà. Quando l'hai comprato, vai, ne vai una, me la mangiavo, non me ne ha fruttiuta una volta, non ti fa niente. Se la mangi abitualmente sì, ma se la mangi una volta solo ti fa niente. Comunque l'amico mio non c'è più. Il fratello di quella compagna che c'avevo io, che si è malato un'altra compagna alla casa sua, quello aveva lo stesso il diabete, e quando mi scendeva a 50 dice si tremava tutto, aveva freddo. Poi non so cosa è successo, un bel giorno era con la moglie, è andato dalla suocera e la moglie ha detto Oni vai e piglia il bastone di mamma, me l'ha dimenticata in casa. Chito si è andato, era in pensione, giovane, era carabiniere, cazzo non trovava più. È andato a me, l'ha ciappato, dall'anzio non gli ha detto. Era mosso. Un infarto gli è venuto perché i diabetici, è quella la volta che fanno i diabetici, lo sento. Si... Lo e cos'è il tuo casino? Cos'è il rumore già? Gianni, cos'è successo? Oh già! Qualche cipolla ha scoppiato, cazzo ne alzò come se fosse gargato sopra. Ma Gianni è parito, ma è successo? Oh, è chiamato. Ma lo scoppio l'hai sentito, l'esplosione? È un casino forte ho sentito, ma è successo? No, che bastardi, mettono anche i fuochi artificiali alle 4 di mattina, fanno saltare i fuochi artificiali, per avvisare che arriva la droga. Fare il fuochi artificio di notte, il cane che abbaia, è un casino. Che gente qua, sta cazzo, avevo avuto un vaso di BP da aver contennato. Ah, gli ho chiamato i carabinieri. E lo sai che ci hanno detto che dobbiamo raccogliere le firme e fare la denuncia, che loro non possono andare per queste cose. Che è per le coglione? Oh boh. E allora fai il gabuduio ordinare, ma la macchina di Parecchina aveva contennato dopo, chi è? Boh. Cioè l'articolo disturbo l'ambiente pubblica non esiste più. Esiste già, è come se esiste. E allora devono intervenire, allora se stanno praticamente non rispettando un articolo di legge, devono intervenire per farglielo rispettare l'articolo. Fare fuochi artificiali alle 4 di mattina, roba di spavento, poi non ti addormenti più la notte perché ti spaventi e non riesci più a dormire. Buonasera a tutti, depenalizzato. Ciao Marcoli. Depenalizzato. Ciao Tonino, gli altri non so se ci siano, sto rientrando adesso a gamba tesa. Allora, non è giusto il termine. Allora, mentre prima loro potevano per il disturbo alla quiete pubblica agire di propria sponte, adesso il disturbato deve fare una denuncia, se no non si muovono più. Quello è uno scaricamento di responsabilità della serie, la scusa di chi non vuol fare niente. Stai portando un rumore appresso, Marcolino. È la ventola della scarpetta, Ma è capibile la radio? Sì. Aspetta, metto il mic gain appena più basso, lo metto a 6. Magari a 5, magari si riduce. Capito già, prima era perseguibile, lo perseguivano loro. Adesso il disturbato deve fare denuncia, una rottura di scatole. E lo Stato è sempre più assente, l'avrete notato, no? Per tante cose stanno, diciamo, facendo queste cose qua, che se la deve vedere il cittadino facendo denunce e magari pigliandosi le ripicche, capito, di chi disturbava. Sì. Ma tu immaginati alle 4 di mattina, l'altra mattina, hanno fatto esplodere i fuochi d'artificio, pu, il cane che abbaiava, un casino, non ho più dormito. Ma infatti prima si è sentito un abbuolotto assurdo e credo che poi fosse il cane che abbaiava anche. E la cipolla è forte, terrificante, cipolla o quei petardoni tipo i Cobra 6, quelle sono bombe, vere e proprie bombe, roba che puoi comprare solo col porto d'armi. Poi per quanto riguarda i fuochi ho notato anch'io certe volte, allora qualsiasi ora della sera, della notte, certe volte sento da lontano, molto lontano, questi fuochi d'artificio, tipo festicciola di, che ne so, universitari, roba del genere. Per avvisare tutti i tossici prendono a fare fuochi artifici e loro li sentono da tutte le parti. Centro storico. Oh! Non li fanno anche qua, li fanno qua che sta la meridiana. Ma così anche le forze dell'ordine, quando una volta, come lo sappiamo noi, lo sanno loro. Vabbè, che se non è roba grossa, non. L'altro giorno hanno beccato grossi spacciatori, mi pare. Hanno fatto una bella ritatta. Se mi sono spaventato, mi ha fatto, sembrava una bomba proprio un zocco. Ci sono andato a vedere tu lì alla finestra, non ho visto nulla. Chissà dove cacchio l'hanno fatto esplodere. Perché li mettono e poi se ne scappano, no? Per non trovarlo. Anche i famosi magno sono potenti. E un niente ci ha messo qualche dito, perché come andava a sfregarlo su cose i fiammiferi, si copiava direttamente. Ma anche la cipolla deve fare così, mi. Attendite a copiare subito, lo manco dove non le copia già ne più. Una volta tuni da ragazzi, me lo ricordo ancora, la cipolla l'avevamo buttata dentro un tombino di quelli della foglia, non sai che l'ha fatto saltare, ha fatto uscire tutta l'acqua, ha spruzzato tutte le parti. Che schifo, ragazzi, la qua castagna. Tutti i fuggenti, l'abbiamo messo anche dentro una bottiglia, la fa esplodere, cioè tutte cose che fa da ragazzo, lui è, quanto ne abbiamo combinato. Noi da ragazzini facevamo, le scuole sono andate a buco e terra, mettevamo cos'era il carburo, mi sembra, sì, sono vado errato, poi ci piscevamo sopra e mettevamo un barato di pelati sopra, ci scappavamo. Ma lo sanno, ma chi è in acqua, c'è cosa? Troppo dove, eh? Cioè, senza accendere. Beh, il carburo va in ebollizione, il gas, e una bomba. Yes. Avrò fatto cose pericolose, mamma mia, se ci pensi adesso. Però ce lo tenevamo perché già facevamo la pipì dentro il buco per fare combustione. Giustamente chi c'era vicino sporcava tutto, è un casino. Tu cosa, Marco lì, conoscevi cose del carburo? Allora, del carburo io sapevo solo che esistevano lampade al carburo, che se questo carburo veniva a contatto con l'acqua scoppiava, una cosa del genere, però no, mai usate, no? Noi al limite petardini da ragazzi, roba piccola, al massimo il magnum, però il magnum è un giocattolo rispetto ai petardi che ti sto dicendo, Cobra 3, Cobra 6, cioè il magnum c'ha 2 grammi di polvere compresa anche l'accensione, no? Il Cobra 6 mi pare c'ha 20, 30, 40 grammi di polvere, cioè sembrano candelotti di dinamite, sono bombe a tutti gli effetti. Se tu la appoggi sulla panchina, poggiato, piega il punto dove c'era il petardone e piega il ferro della panchina, ti dico solo questo. Infatti sono di una pericolosità estrema, quelli ma non li avrei neanche usati all'epoca. Ero in città e di una pericolosità guai. Ma non le conosco quelli lì, comunque infatti il carburo si è contatto con l'acqua, infatti noi facevamo la pipì, cioè avevamo l'acqua, infatti scappavamo, ma ho già il barattolo, non dico male, ma partiva roba di 20 metri in aria, superava il tetto della scuola come niente fosse le scuole del Betta di San Donato. E io allora da poco, quando sono andato a portare il cane, ho trovato una scatola che c'erano una ventina di candelotti dentro, svuotati sicuramente, quelli lì dovevano essere fuochi d'artificio, che fa? Scusa, ero distratto, scandelotti? I cartoni sono, praticamente erano tutti in fila dentro questa scatola quadrata, no? Tutti quanti messi pressati uno con l'altro, non si muovevano, erano tutti quanti in fila. Ce ne sono stati una ventina, vabbè, tutti quanti esplosi, però la scatola era lì, capito? Niente, poi noi da ragazzini all'età di 7, 8, 9 anni, centro storico, usavano, c'erano le vecchiette che mettevano il suo braciere fuori, col diavoletto. Noi 2, 3 mettevamo dentro il diavoletto e il sale grosso, Gianni partiva anche il diavoletto di separatura. Esce la vecchia, ma che ciò che è buono che mi ha venduto, è tutto con piede, non va riunta. Me lo ricordo prima che metteva le braccia di fuori, il diavoletto non era altro che una latta di cose, di quelle dell'olio così aperta sopra e sotto, e serviva per radunare la vicina. Ma è anche per riparare, per il vento e cose. Ma guarda, partivo anche pezzi di carbone, era pericoloso, ma non ci difendevamo da pazzi. E tu Marco Riccia, le c'è queste cose, l'ha detto tua madre? No, queste tecniche che hai nominato non le conoscevo, queste cose qua diavoletto, oppure vabbè, il carburo l'avevo visto in TV e basta, sapevo quello, che scoppiava a contatto con l'acqua, roba del genere. Vabbè, noi in piccolo, quando eravamo proprio bambini, l'equivalente del minicicciolo o quello che c'era all'epoca, messo nella cacca fresca del cane, morbida, scoppia, un amico gli va in faccia, lo schizzo di cacca in faccia, se ne è fuggito. Che schifo. Ma se ti capita, Guga, Marco lì, qualche arrostita con amici, 2 o 3 pezzi di sale grosso, buttali dentro, Guga è buono, e butti lontani, cazzo di cazzino. Ma proprio fa, lo scoppietto, fa. Lo scoppietto, ti baci, Guga è buono, ma sta là, c'è un casino. Io lo faccio sulla legna, quando c'è il fuoco acceso, per abbassarlo a fiamma, poi metto con l'uffino, non con... No, vabbè, e poi no, meglio non farlo a giminate, a seconda di chi trovi ti butta nel fuoco, non ne facciano. Gianni, sale fine o no, lo facciamo anche noi per spegnere la fiamma, metti il sale grosso, 2 o 3 pezzettini, non di più, vedrai Luca è buono, andiamo a finire. Farà una reazione chimica sicuramente. Ma scoppi grossi, parte tutta la massa all'altro, è un casino. Vabbè, tante cose, noi mettevamo il lucido di scarpe nel lucchetto per aprirlo, quindi mettevamo fuoco e scoppiava e si apriva. Oh, poco fa avete nominato San Donato, a proposito di scoppi, spari, esplosioni, avete visto che gli extracomunitari sono in ferri corti, si stanno sparando tra di loro, cioè nemmeno i residenti sono arrivati a tanto. Io sono passato a corso poc'anzi, era stata le 5, 4 pattuglie di carabinieri, tutte bloccate il pezzo tra il corso e via San Donato, e tutto il male successo, io tanti carabinieri di corpi, chi Ehi, però non ho capito la nazionalità, se erano nigeriani contro romeni o romeni contro romeni, nigeriani contro nigeriani, quello non l'ho letto sul giornale, no, su internet. E oggi c'è stata una retata comunque, stasera, perché c'era un medico di carabinieri, con le appaggiature, le macchine ferme, bloccate, tutte lì, attraversando un percorso, un casino. Ma... ci sono sparati. No, io questo non lo so, però, pardon, dimenticavo, non solo i carabinieri, ma c'era anche una bella camion dei pompieri con gli appaggiatori, non so cosa è successo. Allora Gianni, la nuova dice che mi pare l'altro ieri o ieri si sono sparati, così dicono. Quindi ci sono feriti. Sì, un ferito, o almeno uno. C'è da fare finalmente su questa gente, sono tipo un'inizio, questa è la terra. Ma guarda lunga, sono male di un raio, i nigeriani, guarda, la razza è tutto cattiva. Sì, non si capisce nulla. Che la gente ha anche paura, le donne, di passare la sera lì al corso Vittorio Emanuele, che è una vergogna. Quello che non capisco, Tonino capirà cosa intendo, ma chi era residente a Sassari Vecchia, soprattutto in certe zone, gente che si faceva rispettare, no? I veri sassaresi, come hanno permesso, cioè come è successo che questi arrivano da fuori e prendono il controllo di tutto il corso e di tutto Sassari Vecchio, che fanno la padrona in casa nostra, com'è possibile? Cioè dove sono i parentes sassaresi che avrebbero dovuto, non lo so, fare qualcosa? Ne sono rimasti pochi sassaresi, non preoccuparti. Io ci vado perché ci abita la mia ex, dico, e a me grazie a Dio non me l'ha mai rotto le palle, quindi anche se un po' è prepotente. Comunque, il fatto se dico com'è successo, siccome i padroni dei magazzini o di qualche casa di cacca sono talmente bastardi, Marcolì, che dice io per dartela affittare a Marcolino la casa mia o un magazzino per 100-150 euro, le palle non glielo do a Marcolino, io ci metto 10 senegalesi e mi danno 1000 euro, 100 euro per uno, hai capito come funziona? Tipo le sardine, in 10 in una stanzetta. Io l'ho visto veramente in 12 addirittura, un attraverso mi assisto, un casino. E poi quando passi vicino c'è un odore di cipolle, chi ti mangia un mezzo da mangiare, a brodo, che schifo. Oh, a me piace da morire la zuppa di cipolle, d'altronde a me cos'è che non piace? Piace un po' tutto. A me le cipolle mi piacciono in brodo, ripiene come le zucchine, poi mi piacciono le cipolle fritte, che sembrano gambili quando te li danno, e impalate fritte. E poi le cipolle mordite alla Nutella. La cipolla è buona, io la metto sempre di insalata anche cruda. E io quando faccio il brodo di pollo ci metto le cipolle, ma metto 4-5, perché poi c'è un filo di olio, una spolveratina leggera di sale fino e un po' di aceto di mele, ma non ce n'è. La prossima volta che mi faccio il brodo però ci metto la lingua di bue, perché vuole prima bollita e poi scogliata, ma non sa quanto è buona. A me lo ci dice, l'ho fatta da poco, l'ho fatta così, sbollentata, tolta la pelle e poi fatta col sughetto piccante, fatta a fettine, fatta col sughetto piccante. No, io ho niente sughetto piccante, a me lo piccante per carità, no. Ho detto bollita, tagliata a pezzi e fatta insalata, buono così. avanti Bacoli. Ci trovo te. Vabbè, in base alle conoscenze, amicizie, vedevo gente spostando la cipolla nel piatto, mettendola di lato, spostando questo. Dice, no, quella non la mangio, ma mangiano qui le scatole. E vabbè, i gusti sono gusti, e poi, ecco, a me piacciono cose magari piccanti o molto saporite, e certi sono tutto l'opposto, e bisogna poi rispettare. Mi? Ho sentito un ciocco all'orizzonte, già, non è che da te hanno fatto di nuovo... No, neanche qua non sento niente io. Perché quando ho avuto questi fuochi artificiali da sacerdote storico, io lì da qua li sento. Comunque a me la cipolla stesso mi piace moltissimo. Io quando faccio il brodo ne metto 4-5 belle, troppo mi piace. E mi sa che no, domani è venerdì. Ma forse sabato mattina me lo faccio per brodo. Cioè, sono persone che loro il brodo lo fanno il lunedì. Ma ho c'è che lei, io lo posso cantare una giugana. Anche domani io ho i vitazzi, quindi mi viene male domani fare il brodo. Ma lo faccio dopo domani, sabato mattina, no? Capito? Tutta la settimana si è mangiato questo, quell'altro, poi la domenica fanno la frutta asciutta e lunedì il brodo, così. E io faccio un menù che mi alludi, ma forse lo fa un brodo, ma non tenate. E me lo posso fare burro, macchio, lo macchio le giochi, che una giugana, giusto? Io domenica vi faccio la pasta con suo con la aragosta. Me l'ha regalato due aragoste belle durine. Io ho ancora la teglia di pasta a forno che avevo fatto io preparata e me ne è rimasta una. E ti dico una cosa, che domani compro corrente e ne posso anche 4 mogo in congelatore, così ciò di non ascolta. Buonasera a tutti. La minestra fatta oggi, buona resa in città. Ciao tu, che me ne sei fatto? Ah, a me lo fanno di molti di quei dati. L'ho fatto accoltato, c'è buona lo spesso. Ho messo un po' di estratto in mezzo. Un po' di quelle stelline, me ne stavo mangiata, buona resa. La minestra di dati, sì, già mi piace poco a me. Mi piace anche quella di pollo, però la preferisco quella di dati che è più leggera. Ciao Antonio, no, io l'ho fatto un'altra volta a messina di dati. Sì, e metto un bel formaggio grattugiato, perché se non c'è formaggio io non ne mangio. Anche io lo metto, ma dopo che la metti nel piatto, tutti lo mettono il formaggio nella minestrina, dai. C'è gente che ci mette anche il formaggino. Buona. E non solo, me ne è abbastanza, me ne è. E me l'ho mangiata anche stasera, è ancora più buona, ha preso ancora più sapore. E io ci metto un goccio di sugo e mezzo. No, io non formaggio, non l'ho mai messo e mezzo. Sì, anche il brodo di pollo va bene, qualità di più leggera come c'è già, c'è ragione, però non ce n'è, e per me piace troppo, ripeto, molto, ma c'è il formaggio rotoggiato, aggiungato a mia figlia, c'è la giornata, se non mi piace, se non c'è formaggio, io non mi piace, perché il formaggio è tutto, è come una pasta asciutta, non c'è formaggio rotoggiato, e allora non lo fa. Quindi c'è sempre formaggio a casa, per forza, per qualsiasi cosa che fai. Avanti Marco lì. Io vi compro tre pacche alla volta. Ciappa, mi potete dire se il tono va bene così? Il tono è a 3 e l'MB più 5. Se va messo più cupo o va bene così gira? Per me è buono. No, va bene. Ok. Antonio riprendi, dai che vado a bere. Ciappa. Ancora arrivava ad un bisino. Sta sistemando mia moglie, c'è la sua mamma a farlo. Ma tu, ma l'antenna sul tetto non te l'hai messa ancora? Ma sinceramente non ne avevo voglia. Perché infatti come segnale si vede che non sei forte, dovresti essere un 9,20 o 25 buono qua. Ma penso che sia abbastanza, cioè è a me. Sei sui 9,10 qua circa. Senz'altro se la metti in alto sono sicuro che spara ancora di più, perché in linea retta siamo limmi. Penso che Gianni arriva in video, che lui è più in alto ancora. Sì, sarà messo detto proprio. Quanto ne su DB del 9,30 è più forte di te. Oh, ma hai visto dove sono io già? Dove c'ho l'antenna? C'ho l'antenna in terra a me. La devo sollevare per 12 metri. Ho 6 metri, già il palo pronto per mettere sopra l'altro altri 6 metri. Quindi ho anche, perché l'ho comprato il cavo RG 203, perché cambia anche il cavo, però no, ancora no, devo aspettare qualcosa prima, poi lo faccio. No, no, sei, stavo sbagliando io, sei praticamente uguale identico a Antonio, sul DB del 930 anche tu. E quindi non ho perso niente praticamente, sono sempre lo stesso come antenna. Ma lì resti o no? Gianni, questo lo saprò quando interviene il giudice, capito? Perché sono sicuro, come ha detto, ma la finanza mi lascia il contratto, mi fa il contratto nuovo di 4 anni e non pago più quella cifra, ma molto molto meno. Se mi lascia il contratto, alzo, alzo, è come se alzo. Speriamo bene. Ma non a tu, 13 anni in nero, cazzo, e poi la fine mi va a dire entro dicembre vattene via perché devo fare entrare mia suocera. Ha detto no, sei mai detti, se sei venuto a abitare vicino a me ti lascio tutta l'altra casa che tu ha più sopra, la suocera metti la se devi mettere la scusa per mandarmi via perché è venuto a abitare vicino a me, capito, la sorella della mia ex padrona, e quindi se la casa me la sono presa io, e allora ho messo i passi che ho messo e ho fatto anche la denuncia alla procura del procuratore della Repubblica. Per quello che ha costruito in più sono cavoli suoi acidi, sono 20.000 euro di multa, entro 3 mesi deve buttare tutto a terra. Questo è il panettone che le sto preparando io per Natale, così impara a parlare come ha parlato. Ehi, stasera c'erano 4 pattuglie di carabinieri e i pompieri, non so cosa è successo. Ma tu quell'esplosione l'hai sentita? No. Cazzo, un'esplosione allucinante, mi sono cagato sotto, il cane che abbagliava, sono andato alla finestra e non ho visto niente. Un'esplosione, una bomba sembrava. Sì, sarà, che cosa di pompieri. Sa, mi stai chiamando? E che canale stai guardando tu? No, me l'ho guardato su YouTube, però. Su TikTok, su che video è? Su WhatsApp, come è durato il burbuzzo di Bisciora? Oh, ce lo ripeto, in camera dei pompieri, 4 pattuglie e carabinieri, tutti che lo intergiatore, ci fate cose successo. Piano piano si è combassato, a testa mi ha suonato, mi quel pezzo lì. Perché erano di quei mammalucchi di merda, E io avrei pulito, tutti mandati via questa gente, aria, il sindaco è perfetto, invece no, che la gente ha paura anche di camminare a piedi, aio, che è una vergogna. Un paio d'anni fa ho sparato anche vicino a casa, me lo sai, questo negro ha sparato un altro tipo, meno male che non l'ha pigliato. Mi ha sparato 2 colpi alle 11 di mattina. Ma tu guarda tutti i casini che stanno succedendo fuori, nella penisola, tutti extracomunitari, tutti. A chi te va, hanno furato la moto, questo è il casino che hanno combinato. Cazzo, fai di un casino, correndo, e so con la macchina c'è molto più un casino. No, no, no, ce l'avevi tutti, tutti fuori, a chi? A chi inutile, noi dobbiamo fare una cosa, pulirsi tutti d'accordo. Una mezza greffa, a uno, a pigliare la sacca male di tagliare i brazzi. Vedrai che non fa semplice, cazzati. Vedrai se si ne andrà in occhi. Invece non pigliava, ma una pistola, sicuramente è roba di polizia, carabinieri. Sì, c'era casinato comunque. La pistola in mano. Adesso dimmi tu, una donna che abita lì, a quest'ora, ha paura di uscire, perché sì, mi giochicchia animali, io chiamo animali, a chi sta invito non nani, se avevi avuto dolore in Africa, va, detti non ammara. E allora tutti, che tutto lì, se devi uscire per andare a fare una cosa, c'è paura, se io vedi quella bicciola in mano, se vai, esci. Beh, se la bicciola non lo faccio mai, ma concedere me un cazzo, anche io, concedere l'ho dato pure io, quindi a me non mi fa sai, io se devo andare in qual posto, io ho la mia attrezzo, se va la bicciola, dico, sul chi va là, la bicciola non lo puoi fare, ma no, lo proiettile, balla. Se per me non prendi le palle, è andato la mirata. È roba di droga, sempre, prostituzione, droga, lì. Sono tutti spacciatori con la zona, gentaglia, sono sempre posizionati fuori del vicolo, non li vedi come sono sempre fuori, uno che fa la guardia e gli altri che vendono la roba. Io tra me tutti, tutti fuori già, tutti, via. Vedrai come si puliva il centro storico e a quelli padroni in casa dei magazzini e quelli mini appartamenti che avevano le affittate a questi qua, li avrei avrei confiscati. Tu hai truffato perché ti hai rubato i soldi in più e sei un evasore fiscale, quindi sequestrato, non c'è più niente. E il comune avrei fatto affittare le persone che hanno bisogno. E questi personaggi tutti via da Sassari, dallo centro storico. Vedrà che la cosa giambava. Sì, ho visto adesso. La polizia è sicuramente la misura. Guarda, ma non andiamo a vedere qui. Tira aria brutta. Anche in Europa, avete visto, hanno parzialmente interrotto il trattato di Schengen, quindi di nuovo controlli alle frontiere, ha aderito anche l'Italia per vedere chi entra e chi non entra, però il danno è già fatto, per questa storia dei musulmani che stanno facendo attentati così a cacchio di cane. Basta che abbiano un coltello, la cucina in mano, il primo che trovano in strada l'ammazzano, all'Akbar, che il diavolo se li porti tutti. L'America che non vede l'ora di prendersela con l'Iran perché ha aiutato Hamas. Insomma, la situazione mondiale degenera. Stanno dando anche l'assalto alle ambasciate. Un casino sta succedendo. Non è bella la situazione. Io l'avrei fatto scordare tra di loro. Non me ne butto in mezzo. Non fa droga, sta girando. Ah, naturalmente Putin da sempre ragione all'Iran, è amico dell'Iran Putin, capito? I boia vanno sempre assieme. Altro mandato me l'ha, ho capito. Il video mandato me l'ha, sì. Mandalo pure a me, a tu. Beh, Anto, già che ci sei, se c'è il numero ancora, mandalo anche a me. Vuol dire che mi metterò la cassa Bluetooth esterna per sentire l'audio, che il telefono è tutto scassato. E a me è già arrivato, adesso me lo guardo. Grazie a tu. Ho mandato anche a te, Marco. Eia, dopo lo guardo, da, che il telefono è in carica. Dovrei cambiarlo, però sto aspettando perché sono in ponte ancora. Non so se convenga o no prendere un telefono col 5G oppure no. Tanto più di 3-4 anni non dura. Il mio aveva 4 anni e mezzo, poi per via delle ultime cadute si è un po' tutto sciabidato. Non mi ho mai lasciato il telefono. Aspetta, non ti... parla più forte. Che non mi ho mai rotto. Allora, a me prima niente. Poi negli ultimi tempi o mi volava di mano, insomma mi è caduto un bel di volo, o mi addormentavo, sdraiato sul letto col telefono in mano e cadeva a terra, però davanti non è rotto, cioè il vetro di davanti è buono, dietro si è rotto il vetro e poi l'altoparlante ha smesso di funzionare, quella è la seccatura, che non posso sentire i video, i messaggi vocali, devo mettere una cassa Bluetooth esterna piccolina, giusto per ascoltare l'audio dei video, capito? Però purtroppo se chiamano non squilla più, la vibrazione lo stesso assieme allo squillo ha smesso di funzionare, insomma sarebbe il caso di cambiarlo, però d'altronde c'ho anche quello a tasti, se proprio devo telefonare c'ho il telefonino a tasti di quelli elettro di una volta. Dico, ma capiro che la polizia gli ha arrestato il 49 per il pubblico. La polizia gli ha arrestato. E infatti uno ha detto, Ghiccio, ma capito, quella pistola era vera. Otto meno quarto, che dai, devo preparare qualcosa a mangiare io. Dai, buon proseguo, ci sentiamo. Ciao Antonio, ciao Marcolino, ciao Gianni, alle prossimine, ciao ciao. Ciao Antonio, ciao, ci sentiamo, vai. Buona carica quando la fai, sto anche per andare io, dai. Mi fa un po' combinato con lui. Sta funzionando bene. Chi è andato via? Tonino, è troppo buio. Ehi, allora, buona cena a Tonino, sentiamo le prossime, vediamo se funziona sta cosa Bluetooth. Sì, adesso mi guardo il video. Ok, dai, io mi saluto, ce la risentiamo. Ciao a te, ciao Marco, là, chiudo anch'io, dai, ci sentiamo alle prossime, ciao. Kappa. Ciao a tutti, buonanotte, buona cena quando la farete e ci sentiamo le prossime. Guarda quelle scimmie, guarda. Ok, di nuovo buonanotte a tutti, ciao. Il problema è questi con la droga, ci hanno soldi, si pagano fior fiori di avvocati, li mettono subito fuori. Vabbè, ok, di nuovo ciao.